Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 22:12, cambiamo fascia oraria, sì, Maurizio. Cambiamo, ma non musica, ma non vero? Musica. Non musica. La no, musica, no, no, quella, no. Quella c'è. Sì, bella voce profonda. Ripeti un momento. No. Allora, questa è sempre comunque Blu Radio Veneto. Questa è sempre la voce di Agostino con Maurizio. Proseguiamo in questa serata lunghissima di musica, prima con questo trio, insomma, in baustelle con la voce di Claudio Brasini. E adesso invece c'è un altro, c'è una band ristretta però come il caffè. Però abbiamo il prato, vicino al Prato della Valle, caro Giacomo, c'è una via che porta in una strada, che porta in una basilica famosissima qui a Padova. Ci faremo una visita. Sì, meglio. Meglio. Volessi farci una benedizione. Ci andiamo a Lourdes, ecco. Sì. Allora, abbiamo il Leave the Stone solo nella persona di Giacomo Manfredi, perché per motivi, come dire, inerenti a delle portiere. Sì, diciamo la sfiga. Diciamo la sfiga. Chiamiamola così. Anzi, lo voglio, come sta a proposito? Diciamo quello che è successo praticamente. Ma niente, praticamente noi siamo un trio, siamo piano, voce, violoncello e il pianista, che è un'altra disgrazia, si sposa anche lui. Quindi... No, scherzo. Sì. Si sposa con una collega, una bellissima ragazza. Sapevamo già che non ci sarebbe stato stasera. Allora, col violoncellista, che suona anche la chitarra, mi ha detto, vabbè, riarrangiamo un po' i brani. Magari col violoncello, certo, piuttosto che con la chitarra, per presentarli questa sera. Vabbè, insomma, stamattina facciamo le prove. Oltretutto domenica abbiamo un concerto. Scende dalla macchina e si chiude il ditone nella portiera. Perfetto. E quindi, anziché fare le prove, siamo andati in ospedale. È chiaro. Però vabbè, io sono qua lo stesso. Sei stato bravo. E poi dobbiamo sottolineare questo, cari ascoltatori: quante ore di coda ti sei fatto? Allora, Milano-Padova 4 ore. Perfetto. Quindi un merito, un encomio solenne dobbiamo fare. Grazie. Ma se sei scaramantico, oggi è il 17, quindi magari... Oggi è il 17, è mercoledì oggi. Non è venerdì, ma insomma... Però agli americani porta sfiga il mercoledì. Ecco. Comunque, a parte gli scherzi, relativi scherzi, insomma, perché sono cose che sono veramente successe. Niente di che. Speriamo che poi stia bene, insomma. Lo salutiamo, si chiama? Emanuele. È il pischello del gruppo, 19. Ecco. Quindi Emanuele, in bocca al lupo e auguri per quello che ti è capitato. Giacomo Manfredi, benvenuto. Grazie. A Blu Radio Veneto. Grazie a voi. Progetto Leaves and Stone. Dove nasce, Giacomo? Dove si crea l'idea? Dove è partita? Allora, è una bella domanda, nel senso che... Io canto da quando sono bimbo. Bene. E non è un modo di dire, realmente così. Ho sempre avuto una forte passione anche per l'esibirmi proprio, perché ne so, all'elementari la recita la volevo fare, nel coro della chiesa volevo cantare. Il mio primo concerto l'ho fatto a 12 anni. Era un bambino prodigio allora. Beh, prodigio, poi questo lo diranno gli altri, io non posso dire. Diciamo un bambino che gli piaceva. Un bambino piaceva, che si dava da fare. Che si dava da fare. Esatto. In una band punk. Una band punk a 12 anni è una cosa molto positiva. Esatto, facevamo le cover degli Offspring, anche però, una canzone nostra. Però, complimenti. E poi, crescendo, fratello metallaro, quindi ho ascoltato molto metal, molto rock. Ho fondato una mia band con altri musicisti, ci chiamavamo Hold, facevamo post-rock. Ora forse ci stiamo riavvicinando, purtroppo. Bene. Anche ecco. Facciamo uno smash degli Offspring. e poi, insomma, più andando avanti, anche magari con lo studio dello strumento, del pianoforte piuttosto che del canto, ho avuto un'esigenza di cambiare un po' fronte e di iniziare a scrivere qualcosa di mio, realmente mio, inteso come cantautore proprio. E nasce questo EP, esatto. The Dancer è proprio il primo pezzo che ho scritto. È il pezzo che apre il disco ed è anche il pezzo, diciamo, il primo singolo di cui abbiamo girato il video. Nasce in una scuola dove insegno. Ah, bene. Io insegno canto, un po' in giro per il nord Italia. Sono sempre in macchina, quindi anche la coda di oggi, ma sì, la cosetta per ma te. Sì, chi se ne frega. Superabile. E nella mia aula c'è un pianoforte acustico molto bello, e un giorno è arrivata l'ispirazione è una scuola di danza anche, quindi è inerente indubbiamente anche al titolo. Al titolo, sì. La sentiamo allora, cosa dici? Va bene. Ok. Eccoci qua, qualche volta facciamo come i gamberi, qualche volta capita di saltare, ma adesso lo riprendiamo. Adesso lo riprendiamo. Cerca di fuggire, ma adesso lo riprendiamo. Ce n'è un altro di disco. Eccoci, dopo lo riprendiamo. Proviamo un altro. Proviamo un altro. Mannaggia. In ogni caso, musicalmente è un bel pezzo questo qua. Ti ringrazio. Come mai l'hai impostato in questa maniera? Mentre, ecco, adesso è ripartito. Lo riproviamo, okay. Dai. Proviamo un secondo e poi parliamo. Va okay. Bene. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Pezzo bellissimo, eh. Grazie, grazie veramente mille. Veramente molto, molto d'atmosfera, molto particolare, molto bello. Sono le canzoni che mi piacciono particolarmente queste qua. Insomma. Grazie. Critico ha scritto progetto composto, creato dalla voce e dalla testa tua. Bello questo, dalla voce e dalla testa. Cosa ne pensi? Allarga un momento il discorso, dalla voce e dalla testa. Cavolo, che domanda. Ma personalmente voce e testa vanno di pari passo. Vanno di pari passo. Nel senso che, diciamo, la voce va coccolata, secondo me. Io sono un cantante, un cantautore, sono anche un insegnante di canto. Che importanza, essendo insegnante di canto, cosa ti dà in più? Allora, anzitutto una responsabilità nei confronti di chi viene a lezione da me, ma in generale forse una responsabilità più ampia. Ora non sono nessuno, però comunque nei confronti del canto. Io comunque sono giovane, ho 28 anni e già insegno. Quindi diciamo che nel momento in cui un mio allievo o chi per esso comunque viene a sentirmi live o mi sente su disco, ma poi è live comunque, c'è la prova del 9, io come artista ho il dovere di passare quello che è il mio credo, che il mio credo nel cantare è realmente di trasmettere qualcosa agli altri per ricevere qualcosa dagli altri. È uno svuotarsi e un riempirsi, esattamente come respirare. Prendo e lascio. Prendo e lascio. Come respirare? È una bella come cosa. Respirare. Quindi la testa a volte va un po' per i fatti suoi. Ci sono i periodi in cui ti senti molto forte, ci sono periodi in cui invece magari sei un po' più giù. E la voce un po' ne risente. Secondo me un artista deve coltivare la propria vita affinché la sua arte riesca a essere sempre specchio di sé, di quello che è. Bello, bello, hai detto una cosa bellissima. Hai spiegato in pochissime parole il concetto, il progetto di questo disco praticamente. Sì, credo sia proprio quello, nel senso che non avevo degli stilemi precisi da seguire. Semplicemente ho seguito quello che mi veniva, l'istinto. E questo è un pezzo pop fondamentalmente. Questo è un, credo proprio di sì. Un pezzo pop. Popone nel senso positivo del termine. Sì, no, ma infatti il pop viene spesso dire esatto. Fai pop, ma cacchio, fai pop non vuol dire mica buttare le robe. Elton John fa pop che pop esatto. Pop vuol dire popular, quindi popolare. Cosa c'è di meglio? E cosa c'è di una melodia che entra in testa immediatamente? Certo. Quello è fondamentale. Non occorre tanto, perché l'acusticità è ben più difficile che l'elettricità, secondo me, in una band. Tu che hai fatto gli Offspring, i veduti e corretti. Sì. Certo. È una scelta rischiosa, in qualche modo coraggiosa. Inizialmente è stata scelta per questioni pratiche. Pratiche, esatto, proprio, esatto. Nel senso che avevo questa esigenza di fare, non sapevo neanche cosa sarebbe successo. In realtà avevo già in mente un po' il mio percorso, ma non sapevo poi come si sarebbe evoluto. Quindi per una questione pratica abbiamo fatto inizialmente un piano e voce. Poi con un quartetto d'archi molto digitale. Molto digitale. Molto. Ma è sempre un quartetto d'archi. È sempre un quartetto d'archi. Digitale per motivi economici. Però non si sa mai. Non lo nascondo. No, non si nel sa mai. Prossimo disco che hai già pronto, mi dicevi. Pronto quasi, no, però quasi sei sulla buona strada. Ci si sta lavorando. Cioè tu hai iniziato con un EP, giustamente dovevi farti sentire, certo, farti conoscere, certo. Non è mica semplice fare un disco ufficiale di 10-12 pezzi, no, ma bastano uno da 6 chiaramente. Ci sono certi dischi da 6 che valgono molto di più di qualcuno da 10, secondo me. Ah, spesso e volentieri. Cosa dici, sono caro Agostino? Ma poi il problema, no, di quanto costa il CD comprarlo, no? 20, 22, 23 euro, vai a comprare il disco, poi trovi una o due canzoni che sono discrete e le altre poi invece sono... cioè, lasciamo perdere. Capita. Capita. Oppure ti fanno una canzone e la raccolta. Capita, capita anche quello. Ne so qualcosa io. Sì, sei molto di un certo gruppo che conosciamo. Non facciamo no. Non facciamo no, per carità. Io beh, possiamo so anche farli per quello, ma non li facciamo. Sono io e Sacchiotti. Gli Sacchiotti. Vanno e vengono, come diceva il buon Francesco De André, Fabrizio De André. Vanno e vengono, vanno, vengono e vanno, come le nuvole. Esattamente. No, no, a parte gli scherzi, veramente. Stiamo scherzando, chiaramente. Cioè, sono pienamente d'accordo con quello che dice poc'anzi Maurizio, nel senso che spesso e volentieri quando c'è un disco con 5-6 canzoni a volte è molto più bello di non quando ce n'è uno con 10, 11, 12. Poi tra l'altro adesso non è neanche tanto di moda farlo quelli di, come di una volta, cioè di 10, 12, 15 pezzi, ma va di moda 5-6, sì, sì, sì. Non di più. Sì, sì, no, è vero, è vero, è vero. Forse ma... perché viene fatto appunto meglio, non lo so. Anche molte band affermate escono con degli EP ultimamente. È vero. Magari in free download o piuttosto che per avere comunque, si vede, non so, tirar fuori qualcosa, c'è questa esigenza. Sei brani magari fatti come si deve. Effettivamente capita comprare CD perché hai sentito il singolo, dici super figo, me lo compro. Sì. Magari quando costano 10 euro, quindi sono usciti da un po'. Sì, e poi dici, cacchio, sì, il singolo effettivamente è veramente bello. Allora compriamo anche il resto. Poi, io non so te, Giacomo, però i nostri tempi, perché lui è il nonno ormai, insomma, il nonnetto della radio, io sono molto più giovane di lui. I nostri tempi, quando eravamo in radio negli anni 70-80, a parte gli scherzi, compravamo i dischi, i famosi 33 giri, solo anche guardando la copertina, magari senza sapere. Te ne faccio uno che mi viene, che ormai è classico, ed è quello dei King Crimson, cioè che c'è questo, questo disegno. Mi ricordo Crimson Cream, quello. Esatto. E lo compravi solo per la copertina, poi trovavi dentro qualcosa di eccezionale. Però la copertina, giustamente come diceva Agostino, la forza della copertina ha un indice, secondo me. Vuol dire che il disco era molto forte, molto importante. Beh, quello è un disco seminale, come tutti sappiamo. Anche la copertina non è fatta a caso. Io ricordo le copertine del quel bravissimo pittore Roger Dean, quello che faceva le copertine degli Yes, ti ricordi? Mm-hmm. Tu sei giovane, hai solo 28 anni, io ne ho un pochettino molto di più, però la bellezza della musica non ha età, secondo me. Assolutamente, assolutamente. Cantautorato italiano, ad esempio, voglio dire, anche oggi ci sono i cantautori bravi. Certamente. A me piace molto Nicolò Fabi, ad esempio. Certo, come no. L'ultimo disco è molto bello. Però se vai indietro con gli anni ascolti Dalla, sì, Battisti, De André, dei nomi tutelari, certamente. Esatto, voglio dire, e li vai a pescare dagli anni addietro. Questo vuol dire che magari io quando non ero ancora nato c'erano degli album meravigliosi, o i Beatles, cioè i Beatles, voglio dire, ma gli album dei Beatles li ascolti adesso, li senti 10 volte e dici ma come sono stati capaci di fare certe cose. Pazzesco. È pazzesco, eppure. Ma anche Sunday Morning. Sì, anche che abbiamo sentito prima con Claudio. Sunday Morning è un pezzo. È del 67, cari ascoltatori. 67. È quindi attualissimo. Ed è attualissimo. Cosa meravigliosa. E The Dancer, musicalmente, l'idea come è nata? E voglio sapere come l'hai costruita, vera e propria. Il pezzo, le melodie, come l'hai tirata fuori dal cassetto della tua memoria? Allora, partiamo da un presupposto. Partiamo dal presupposto. Allora, io sono pigro. Sei pigro. Okay. Sono pigro. Io non ci posso fare niente. Ma io sono pigro. Ok. Ho bisogno di sedimentare le cose, fondamentalmente. Poi sento che quando c'è il momento, boh, funziona. The Dancer è nata perché io andavo a lezione di pianoforte da... Vabbè, spiego un po' tutto, dai. No, è giusto, abbiamo tempo. Spieghiamo. Io abito a Milano, vado a lezione di canto a Cuneo. Quindi 2 ore e mezza di macchina lontano. Dal mio maestro, si chiama Albertera, che è un maestro meraviglioso. Ho detto, beh, già che mi faccio 2 ore e mezza di macchina, farò anche lezioni di pianoforte magari, no? E ho trovato, questo è proprio il destino, Enzo Fornione, che è un amico, un bravissimo musicista, un bravissimo insegnante. Insomma, vabbè, io andavo da lui, mi dava le cose da studiare. Essendo pigro, non è che studiassi chissà che. Allora, comunque, per dovere, mi mettevo sul pianoforte e ci giocavo un po'. Un giorno ho trovato l'arpeggio iniziale. Ho detto, cavolo, questa cosa funziona. Da lì ho messo un po' le mani, anche un po' a caso, devo dire, aggiustando, ma era come se... Ora sembra venuto chissà chi, ma andava quasi da solo. Era già dentro in testa. Allora, io sono andato a lezione e ho detto, ma hai fatto le cose da... guarda Enzo, questo pezzo a farti sentire. E lui, come diciamo a Milano, si è preso bene, no? Allora ha iniziato a sviluppare. Si è dimenticato delle lezioni. Si è dimenticato delle lezioni. Allora le lezioni di pianoforte, siccome aveva visto l'elemento che aveva, l'allievo che aveva, sono diventate lezioni sui miei brani. Lavorare proprio sui miei brani. Quindi l'album è stato fatto assieme a lui, hai fatto sentire a lui i pezzi che scrivevo. Ho fatto sentire a lui i pezzi che scrivevo, perché un bel giorno io gli ho chiesto: Enzo, ma ti andrebbe di suonare sul mio disco? E lui mi ha detto sì. Sì, assolutamente, lo faccio molto volentieri. E per me è stato un onore. Allora, il pianoforte del disco è stato registrato in una chiesa sconsacrata che c'è a Fossano, di fianco alla scuola di musica, appunto, dove io sono allievo. Il direttore dell'Istituto Baravalle ci ha concesso un pomeriggio all'interno della chiesa. C'è questo pianoforte a coda. È un'acustica meravigliosa, bella. Allora. Un'acustica meravigliosa, molto ambient, anche un po' qualcosa di fondo, ma ci sta, secondo me, ci sta. È venuto il fonico Daniele Valentini da Lodi, e quindi lui nel giro di 2 ore ha creato questo EP, che per me è stato favoloso. Abbiamo registrato 4 brani. Perché uno poi il piano l'ho suonato io e si sente la differenza, e un altro invece è chitarra, batteria, un po' più mosso. In realtà no, però un finale lo avevo visto in quel modo. Bene. Che è Summer Sky, poi certo, sentiremo. Poi sentiremo. Ascoltiamo un'altra traccia. Sì, sentiamo la traccia numero 2, mi pare, come si intitola? Si chiama I'm Burning. E quella traccia, c'è un motivo. Io ed Alberto Pisco, che salutiamo, il nostro direttore artistico, ci siamo innamorati musicalmente di questo pezzo, e per un mese è andato in onda nella nostra emittente, dare il lancio, come si dice una volta, in rotation, EV rotation. Mi fa molto piacere. Secondo me è un pezzo molto interessante, molto significativo. Adesso lo sentiamo. Ok. There's a pot in front of me, sweet temptation for the blood that flows in me. Some feelings I just picture to the wall, the loneliness comes by your side. You can look at me and think what I'm looking at is really who I am. Many sides were born in me, and now I'm no more the man I used to be. Turn your eyes on me. I'm burning. You feel the fire in my heart. Now your plan is complete, and I'm running to escape from fire in this hole. Lying near you on my bed, thinking out. Can't tell we are playing it. And I know you guess you won every time that I fall down at your feet. Cause pretend is a fine art, just too proud to understand what I really am. Destroy the cells, my money's free. Really just to satisfy my luxury. Turn your eyes on me. Fire in Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Sì, cosa possiamo dire, caro Agostino, di questo pezzo? A me è piaciuto, e anche a me, ad Alberto, è piaciuto moltissimo, perché è malinconico, una malinconia... È struggente che ti prende dentro. È inglese, sì, come impostazione, ma non è... Cioè, i giornali, tanti critici, giustamente, il tuo disco è stato criticato, nel senso positivo, da un sacco di gente. Sì. Hanno citato Damien Rice, i Coldplay, Sugar Ross, ma non ho sentito né Damien Rice né Coldplay in questo pezzo, ho sentito te. E basta, con le tue influenze, certamente nella tua vita musicale, però molto lunghissima, hai sentito tante cose e tu giustamente facevi un'annotazione, tu che vieni dal meta, dai pezzi duri, e adesso l'annotazione la dici live, in diretta, a tutti i nostri ascoltatori. Ok, ma secondo me, io ho cantato in band, cover band metal, ma comunque nella mia adolescenza è la musica che ascoltavo, avevo il fratello più grande che ascoltava quello, quindi... per osmosi, ma poi ero, certo, ci credevo di brutto, attenzione. ma in metallari in generale, poi un certo tipo di metal, magari il power metal, l'epic metal, hanno grandi melodie all'interno, ma grandi melodie. In ogni disco c'è almeno un pezzo con una ballad, e tante volte sono pezzi veramente notevoli, cioè importanti dal punto di vista della melodia. Questo brano l'ho scritto molti anni fa insieme al chitarrista del mio ex gruppo, ci chiamavamo Hold. Molti anni fa è stato scritto, forse 5-6 anni fa. Avevi 20 anni, 22, 23, quindi eri molto giovane. Sì, sì, sì, forse anche... Anche prima forse. Sì, perché inizio effettivamente... Quindi 20 anni, dai, facciamo 20 anni. Sì, sì, attorno ai 20 anni. Insomma, avevo questa melodia, mi sono trovato con lui, abbiamo fatto insieme il ritornello. E è uno di quei pezzi che sentivi subito, che dici, cavolo, questa funziona. Infatti era il nostro cavallo di battaglia. All'epoca era molto diversa così. A dire la verità non siamo mai riusciti a renderla particolarmente cattiva, perché comunque ha una struttura pop. Esatto. Ha una struttura pop, quindi anche riarrangiarla in maniera rock pesante, diciamo, è stato molto difficile. Forse non siamo neanche mai riusciti. Secondo me la reale dimensione di questo brano è questa. Quindi l'ho fatta sentire a Enzo... l'abbiamo abbassata di tonalità prima. L'avete abbassata, ora l'avete prosciugata. Abbiamo prosciugato, prendendo delle note allucinanti, veramente da pazzi. Abbiamo messo una sezione archi è venuta molto bella, secondo me. Sono molto contento. Ma perché bruciavi? Perché bruciamo? L'hai scritta tu questa canzone? Sì, sì, sì, sì. Sto bruciando, dice. Ma perché? Cosa bruciavi, da cosa? Se sono troppo indiscreto. No, no, ci mancherebbe. Ma i testi, almeno per quello che mi riguarda... sono sempre tutti intimi? Sono sempre molto intimi, ma un'intimità che a volte neanch'io conosco. Nel senso che anche quando mi ritrovo oggi a scrivere... testi, e prima riflettevo quando parlava di testi i Baustelle, che sono molto impegnati nel sociale, precisamente dentro nel sociale, mentre parlava, leggevo su Mucchio, c'era un'intervista che comunque un cantautore deve esporre la realtà del suo tempo. Forse io non ho ancora questa maturità, io esprimo quello che sento io. A volte ci sono delle parole che ti trascinano nel brano e da lì costruisci la storia. Poi non nego che magari in futuro qualcosa cambierà. All'epoca andavo all'università, quindi probabilmente bruciavo per qualche... Ah, ecco. Per qualche cometa. Diciamo di sì. Senti, Giacomo, volevo chiederti, come mai scrivi solo esclusivamente in inglese? Perché ti viene più facile? Allora... O perché ti piace di più, o perché è più facile cantarlo l'inglese? Questa è una cosa che attanaglia mia mamma tantissimo. Perché? Non capisco. perché ho sempre ascoltato musica straniera, a partire dai metallari, ma poi anche crescendo, appunto, Damien Rice, Paolo Nutini mi piace molto. Ma è bravo Paolo Nutini. Molto. O Elton John, o Sting, comunque gli Cinematic Orchestra, Jimmy Carr, un sacco di nomi, insomma. Io mi piace ascoltare un po' di tutto. E quindi l'influenza è venuta da lì, nello scrivere in inglese. Mi piace proprio la fonetica inglese, e quindi forse da lì. Ho scritto anche un brano in italiano che probabilmente uscirà sul prossimo disco. È stata un mettersi in gioco più forte, sicuramente, specialmente poi farlo live, perché con l'inglese se canti in Italia è un po' una copertura nell'esprimere realmente magari i tuoi sentimenti, con l'italiano, cavolo, sai cosa c'è in Italia secondo il mio modestissimo punto di vista? Se tu ti presenti nei concerti o nelle serate così con la canzone in inglese e il nome del gruppo inglese o americano, sembri che sei uno straniero. Sì, sì, no, ma questo è... cioè... Io quando vado all'estero non mi parlano, mi parlano sempre in inglese. Allora è quindi... bello che vai là, no? Gli parli in inglese, questo... ah, ma guarda che sono di Verona, Venezia, Vicenza, Paolo. Cioè... è vero, si può fare, si può fare questa cosa. Una finta. Cioè, un altro critico ha scritto un'altra bella cosa, adesso vediamo se sei d'accordo. E la colonna sonora perfetta per una commedia americana, un film d'autore, La vita di uno di noi. Una commedia perfetta, un pezzo, cioè un soundtrack perfetto per una commedia all'americana. Sei d'accordo su questo? Questa recensione me la ricordo molto bene perché è la prima che è stata fatta. Sono state, adesso, cari ascoltatori, dobbiamo sottolineare che Giacomo ha avuto tante recensioni, tutte positive. Decisamente positive, come disco, come EP di esordio, è una grande soddisfazione. Sì, sì, assolutamente. Poi... quindi questa commedia americana. Ma effettivamente, risentendo anche i brani dopo, posteriori, per dire, le soap opera americane, i telefilm americani hanno sempre delle colonne sonore molto belle. Molto belle, esatto. Con delle musiche molto evocative, molto, insomma, molto belle, molto anche piacevoli. Sì, i dialoghi chiaramente qualche volta sono almeno molto al di sotto delle sceneggiature, certamente. Sì, esattamente. Però poi magari ti prendi solo la colonna sonora e dici, cavolo, ma questa roba qua cosa ci faceva lì in mezzo? È vero, Jeff Buckley, qua, lui era in mezzo a un sitcom, possiamo dire, americana. Esatto. Esattamente. E poi però magari scopri dei gruppi che in altro modo non avresti conosciuto, quindi questo è un punto a favore. Ci starebbe, certo, effettivamente lì in mezzo un pezzo come Dancer o come questa. Quindi se me lo volete far passare in un telefilm, chi è all'ascolto, sì, per me va benissimo. I produttori... Non c'è problema. Giacomo non ha nessun problema. Sono aperto a queste cose. Se qualcuno ci sta ascoltando... Si sa mai, Giacomo, non si sa mai. No, però mi fa piacere che l'abbiano sottolineato, certo. Era una recensione molto bella, ben strutturata. Cioè, ha preso proprio i punti, i cardini giusti del tuo concetto sonoro. Sì, che sì, musica, sì. Non dico, non è... ambientale, è una musica accattivante nel senso positivo, cioè prende, è una specie di contorno che poi si sviluppa, si amplia all'invero, come vuoi te, l'ampli e poi la racchiudi a tuo, certo, piacimento. Bisogna anche aver voglia di ascoltare. Bisogna aver voglia di ascoltare, con attenzione, certo. Non si può, non è pop, sì, ma il pop, cioè pop e pop, come ce ne sono le divisioni, bisogna sentire, bisogna ascoltare, bisogna penetrare dentro la tua idea musicale, e questo è positivo secondo me. Bene, riprendiamo il discorso musicale, cosa dici? Sì, sì. Visto perché... che ormai sta arrivando l'estate, il cielo d'estate è, okay, è bellissimo, no? Sì, speriamo. Beh, adesso è arrivato, fa un caldo. Sì, adesso fa tanto caldo, sì, è arrivata l'estate, non proprio, però l'idea dell'estate l'idea. Può darsi. Ci piace. Ascoltiamo una canzone, poi ne parliamo o vuoi parlarne prima? Come volete voi. No, sentiamo il pezzo prima, dai. Ok. I will finally kiss the stars. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, come ti è venuta questa cielo d'estate? Questa Summer Sky si chiama la canzone. Questa mi è venuta suonicchiando la chitarra. Diciamo che io suono un po' la chitarra, un po' il pianoforte un po' meglio. Non sono un virtuoso né dell'uno né dell'altro, però è venuta così, si vede perché doveva venire, fuori. Anche il testo, di solito scrivo prima la musica e poi il testo, in questo caso è andato proprio, mi ricordo, un pomeriggio si è risolta tutta. È fatto in velocità questo. Sì, poi siccome esce un po' dagli altri brani, questo a livello strumentale proprio, ho chiamato dei cari amici e colleghi alla chitarra, quel solo meraviglioso, secondo me, l'ha fatto Andrea Scano, e alla batteria c'è Marco Ricotti, che sono due musicisti di professione molto bravi, e hanno reso la mia idea alla perfezione. Ecco, Andrea suona anche il basso, mi pare. Sì, Andrea suona anche il basso, è vero. Chitarra e basso. Sì, sì, sì, sì. La chitarra che ha dato una colorazione, come tu giustamente hai detto a microfono spento, Gilmoriana. Che poi si apre. Floydianamente parlando, si apre un'esplosione, non proprio totale, ma leggera, sì, esplosione. Sì, sì, sì. Di sì, note. Sì. Un po' alla Coldplay quella. È un po' la Coldplay. Io adoro i Pink Floyd, per me sono... Sei floydiano al 100%. Mamma mia, numero uno, sì, numero assolutamente. Uno. Vengo a vedere a Padova Roger Waters. Ah, l'hai già preso il biglietto? L'ho già preso, sì. Mi pare giusto. Ho preso i primi giorni, se no tanti saluti. Ecco, cosa ne pensi? Uno che riprende un disco che praticamente ha scritto tutto lui, gli altri erano solo, non degli incomodi, erano dei musicisti, ne ha buttato fuori uno quel giorno, perché secondo lui quello non andava bene, right, e poi l'ha ripreso. Perché? Eccolo qua. Come mai, secondo te, cosa gli ha passato per la mente a un genio? Perché lui ha scritto tutti i pezzi dei Pink. Ma secondo me, tu da musicista come ti comporteresti se dovessi riproporre una cosa simile? Se dovessi ritenere che il mio lavoro fatto anni fa possa ancora smuovere o possa essere ancora attuale, perché no? Io non credo che sia una questione di soldi, no, per un personaggio come Roger Waters. Penso di no. È proprio perché probabilmente avendo The Why importante per lui, importante, è importante per lui sicuramente, importante per lui. E è importante anche per me poter rivedere un personaggio del genere, per i musicisti o per le generazioni di oggi rivedere, voglio dire, per me è un mostro sacro e uno spettacolo del genere. Io non ho ancora avuto il piacere di assistere. È favoloso lo spettacolo. A Milano costava un po' tanto, ho detto lo prendo, non lo prendo, ciao, il giorno dopo tanti saluti. Chi è andato a vederlo hanno detto che è una cosa pazzesca, che ti smuove. Ecco, secondo me è importante che la musica ti smuove, cioè senza musica siamo morti, siamo morti. La musica deve smuovere. I Beatles hanno smosso tante, come i Beatles, con i Rolling Stones, quei gruppi storici o i Led Zeppelin hanno smosso. Se vedi un bel concerto, secondo me è difficile che poi tu faccia qualcosa di brutto in quel giorno. Quando io ho l'opportunità di vedere un bel concerto, o che ne so, faccio una bella lezione di canto, sono contento. È propedeutico. È propedeutico, assolutamente. Se un mio allievo è contento dopo che ha fatto la lezione, vuol dire che io ho fatto un bel lavoro. Non tanto nell'averlo fatto cantare bene, ma perché è contento, va a casa e sorride. Questa è la forza, secondo me, della musica, che oggigiorno viene un po' smontata. Sì, smontata da certe cose. Adesso dopo ne parliamo, che io e Giacomo abbiamo svolazzato su certe cosette che fanno per televisione, sai, i cosiddetti talent. I talent, secondo me, hanno ucciso certo modo di far musica. Sì. Perché hanno preso il personaggio che purtroppo poi viene usato in una certa maniera e poi viene buttato sulle ortiche quando non serve più. Certo, io sono assolutamente contro, ma prenderei una posizione estremistica. Sì, senza nessun, non ho nessun problema a dirlo. Che senso ha fare una gara di canto quando poi di canto vero non c'è niente? Ma perché il canto non è una gara, è un esprimersi. Su cosa devi fare una gara? Oltretutto vincono delle persone che se poi non hanno quel successo dopo li butti nel cestino, o se partecipi e non vinci sei quello che ha fatto X Factor e non ha vinto, non ti e sarai più bollato nessuno. Ma neppure quando hai vinto dopo, fra un anno dopo non ti ricorda nessuno, ben pochi, anche se lo vinci, anche se non vinci, anche se lo vinci. A Mengoni però è stato ricordato, X Factor ha vinto e con Mengoni, perché forse era un autore. Mengoni è un autore più che cantante, questo non lo so, devo Mengoni essere è un autore, scrivi un autore, i suoi pezzi. E allora è quello importante, ok, quello può essere un trampolino di lancio, però e le band, voglio dire, e quelli che funzionano, che ci sono, che sputano sangue, dove li metti? Ora, io non ho niente contro Mengoni, anzi, secondo me è uno in gamba, realmente. Però non ritengo che sia il modo giusto per vivere la musica. Quella è più immagine. Se Mengoni era brutto, non era in televisione. Aveva difficoltà, non era in televisione. Io e Alberto l'abbiamo visto anche a pochissimi metri, perché siamo andati a Sanremo al festival. E quando ha vinto poi le feste, è venuto a festeggiare, sì, insomma, lì a casa Sanremo, ed era veramente vicinissimo a noi. Ma sembrava stordito, proprio. Però ma ci credo. Era umile, molto umile. Comunque. No, ma non ho nulla, ripeto, non ho nulla contro. Secondo me non è giusto questa mercificazione dell'arte, certo. Che poi è quello. Certo, è proprio quello. Ora è difficile che escano i Pink Floyd oggi, perché sono tempi diversi, perché la realtà musicale. Chi ti aspetta se fai un disco magari fatto in un certo modo e non funziona? Non ti aspetta più nessuno. Ora, io ho una responsabilità nel fare il prossimo, perché deve funzionare in qualche modo, perché so che c'è, non dico che c'è attesa, ma ho già fatto un prodotto buono e il secondo non è che può essere minore, anzi. Quindi ci devi studiare. Devo lavorarci, ma è giusto questo, è giusto. Però sono altri tempi, ecco, sono altri tempi. A te che piacciono i Pink Floyd, ne approfitto per aprire una piccola parentesi, non so se lo sai già, ma sabato prossimo, sabato prossimo, a Brescia, c'è il Pink Floyd Day. Lo so. C'è una band che sono amicissimi di questa emittente che vanno a suonare lì, sono i With Matrix, li salutiamo caramente se per caso ci stanno ascoltando. Assieme a loro portano addirittura la corista dei Pink Floyd, cioè Durga McBrown. Wow. Quindi tu che sei amante dei Pink Floyd, è un giorno che non te lo puoi perdere. Poi sarà tutta una giornata dedicata a questa band, insomma, è un giorno penso da vivere assolutamente. Assolutamente. Quindi tu sei anche più vicino di noi. Sì, Brescia, sì, sì. Quindi è sabato 27 aprile. Cioè quindi faccio un annuncio, Anna, sabato 27 aprile siamo dai a Brescia. Sì, è da vivere veramente. Perché sì, poi tra l'altro i Fleetwood Mac che sono bravissimi, sono una tribute band praticamente, però è fanno... Sì, sì, sì, proprio sembra di sentire i Pink Floyd. Allora bisogna andare. Devi. Sono in 11 sul palco con tanto di disco, di maiale, sai, di mamma laser. Mia. Ma sono pazzeschi, hanno tripla tastiera, c'è il piano, c'è l'organo, c'è la... Guarda, sono veramente mostruosi. La batteria, doppia batteria con il muro di percussioni. Cioè, voglio dire, vivilo quel giorno, perché certo, merita. Cavolo. Vi trovo lì? Ma probabile. Casomai ci vediamo lì. Bene. Così te li faccio conoscere anche. Ok. Maurizio. Sì, adesso che scaletta abbiamo? Scusa, che pezzo abbiamo in scaletta? Adesso c'è... Chemistry. Il chimico. Sì. Chemistry, alchimia. Alchimia. Fa parte anche quello di un concetto musicale da sempre, l'alchimia. Sì. L'alchimista è un personaggio che crea delle cose un po' plasma. È plasma, delle cose un po' fuori dalla normalità. Un musicista può essere un alchimista. Certo, un musicista è un alchimista in fin di conti. Plasma quello che sente, lo trasforma in suono, in parole o in musica. In musica. Certo. Ok, sentiamo. Ascoltiamo. Your heart, 'cause you live in mine. I belong to your smile. Through your shore I have found my own life, brightens up by your love. I want a roof and a couch, all those things that you see. Kiss your lips and make love till night close our eyes. I belong to your smile, through your shore. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci qua, siamo sempre in diretta, 23:03 e 47 secondi. Yeah. Live and Stone, sempre davanti con Giacomo, qui presente chiaramente. È il progetto suo, One Man Band praticamente. Oggi, stasera sì. One Man Band, assolutamente One Man Band. Parliamo di questo pezzo, a microfono spento tu hai detto, è un po' meno lavorato, è più libero. Perché è più libero, Giacomo? È un po' meno lavorato perché è arrivato per ultimo, forse per questioni di tempistica. Avevi un tempo prestabilito per concludere, sì, il disco. Sì, è quello che forse mi soddisfa meno. In realtà poi è successo più di una volta, questo è il mio pezzo preferito del disco. Quindi poi alla fine non si sa mai, tu dici ho fatto questa cosa che è la cosa che funziona, poi invece magari è un altro. È il contrario, esatto. Sì, sì, sì. Anche il pianoforte qua non è quel pianoforte citato prima, ma è un altro. Il sound è leggermente diverso, sempre suonato da Enzo, però funziona in effetti, è un brano piacevole. Forse dà un po' più di allegria al disco, che è molto introspettivo. Sì. Questa qua è un po' più... Questo brano è più aperto, più sorridente, più vivace. Esattamente. Sì. Ci sta, stacca un po'. Sì, cosa dobbiamo facciamo fare? Facciamo lì che ci sta guardando male. Esatto. No. Facciamo un giochetto. Adesso Agostino, che è proprio perfetto, DJ, spiega il giochetto. Va. Altro non è che una famosa domanda che facevano anni e anni fa, insomma noi l'abbiamo... furbescamente ripresa, sì, qui del mucchio un po' di anni fa la facevano, ma noi sono 10 anni che la facciamo. Okay, tutti qui l'abbiamo fatta tutti nostra, ma insomma volte, sì. La facciamo più che altro per capire i gusti, okay, dell'artista, della band, insomma, che ci viene a trovare, anche per entrare un po' nel suo mondo, insomma, vedere che ottica musicale allora cosa succede? Succede questo: se tu dovessi andare in una fatidica isola deserta, cosa ti porteresti musicalmente parlando? In questo caso, siccome sei da solo questa sera, abbiamo un po' più di tempo, okay, ti chiediamo, anziché i soliti canonici 3, te ne chiediamo 5, okay, dischi, okay, che assolutamente non possono mancare. Girala come vuoi, oppure se sei a casa, cosa assolutamente non può mancare nella tua discografia, insomma, ecco. Ok, Dark Side of the Moon, scontato. Scontato. Perché però... The Dark Side, non ho un Middle, Atom Heart Mother, perché The Dark Side e non The Wall, che vedrai fra qualche mese qua. È vero, è scontato, però lo metti su dall'inizio alla fine e vai in un altro pianeta. E a oggi l'avrò ascoltato, non lo so, 60 volte. Ogni volta che lo ascolti dici: questa cosa non mi era arrivata. Scordata, era nascosta. Era nascosta. Quindi più lo ascolti e più lo apprezzi realmente. Quindi non lo so, cioè, non posso dire. Perché nulla, l'apprezzi proprio anche dal disegno rivoluzionario per l'epoca. La copertina rivoluzionaria, studio ipnosi, due ragazzi giovani che hanno avuto fiducia, i Pink Floyd erano giovani anche loro, si sono dati fiducia, entrambi hanno... Questo studio che hanno costruito sta cosa meravigliosa. Nell'immaginario questa immagine è fortissima. Dobbiamo è ricordare semplice, che Sid Barrett era uno che disegnava all'inizio, era un disegnatore, certo, un artista, un po' sgregolato forse, ma era un artista. Leggermente. Sì, questo piramide, questo The Dark Side of the Moon, questo lato oscuro della luna, questo disegno, questo album che rimane in classifica in Billboard da tanti anni, è sempre in classifica. Esce il mastering nuovo, esatto, ancora. E perché ancora si ricompra sempre ogni replica, ogni riscoperta, ad ogni rincisione? Perché è giusto così. Perché, perché generazioni su generazioni continuano a comprarlo. Perché è senza tempo, quello che dicevamo prima. È già l'inizio è un'idea grandiosa, questi geniale suoni così aperti, così eteri, ma al contempo i testi molto, molto ficcanti, molto importanti, la corista che fa questa evoluzione con la voce incredibile, che è una cosa meravigliosa, è proprio, sì, non è di questo pianeta, non è di questo pianeta, è di un'altra parte, della luna. A proposito di corista, esatto. E a proposito di coriste, quando ma è lei? No, quando i Wit Matrix canteranno questa canzone, sentiti la corista loro. Ok, sembra è pazzesca, guarda, pelle d'oca. Sì, Serena è straordinaria, te la ricordi? Ma ce l'ha fatta, certo, qui a Cappella, certo, l'ha fatta qua, sì. Mamma mia, sì, guarda, è straordinaria. I'm not afraid to die. Questa non è la corista. No, assolutamente. Questi erano i macchinisti, piuttosto che poi li hanno fatti parlare, sì, dopo li hanno intervistati e poi li hanno messi su bobina. Ok, secondo? Il secondo è un disco che probabilmente non conoscete, o forse sì, però. Vediamo. Adesso vediamo, vi metto alla prova. Comunque non è una band molto conosciuta qua, si chiamano Thrice. Quelli non li conosco, Thrice. Thrice, sono californiani e hanno seguito un'evoluzione nel tempo che è andata un po' con la mia, nel senso che prima erano molto pesanti, post-rock molto serrato, molto pesante, si sono evoluti, hanno evoluto il loro sound, il disco si chiama Beggars ed è meraviglioso, meraviglioso. Questo veramente. Non li conosco. Questo non li conosco. Mi ha bucato. Okay. Purtroppo. Mai sentito. Bucato. questo deriva dagli ascolti magari di post-rock. Di post-rock, esatto. Poi? Terzo? Sgt. Pepper's. Quello non ci ha educato, quello lo conosciamo tutti. Me lo sono ascoltato ancora venendo qua. Vedi, perché lo ascolti uno che... Qualcuno ha detto è la Bibbia del rock. No, qualcun altro ha detto no, è White Album la Bibbia del rock. Secondo te? Non mi esprimo non su ti esprimi così, su questi così valori importanti, così alti. Esatto, cioè ognuno però è... sconvolto, ha cambiato il modo di fare musica. Se non sbaglio è del 69. 67. Ha cambiato, cioè, totalmente di fare musica. È quello il fatto, perché prima nessuno aveva neanche lontanamente fatto una cosa ideato un pezzo come Day in the Life. Solo uno come lui può... Lui, come anche loro... lì che suoni, mamma mia. Come potevano indicare... Cioè, creare una cosa simile, 67 mica, non c'era la tecnologia che c'è adesso, no, 1967. È incredibile. Anzi, se non sbaglio hanno inventato loro dei pedalini. Delle cose, sì. E è quella la grandezza che forse un giovane di oggi non capisce di queste band, cioè questi 67 sono più di 40 anni fa ed è una cosa di un'attualità incredibile, ma belle, cioè sono cose belle, fatte bene proprio, bellissimo. Anche il concetto che c'era dietro, tutto di libertà, di rivoluzione. La stessa copertina, incredibile. La stessa, cioè, era una cosa un po' di tutto, da fuori di testa. Esattamente. Forse ce ne vorrebbero di più adesso. Lo so. Per smuovere. Forse è ancora possibile smuovere così tanto, non lo so. Non si chiamano i Beatles quelli, si chiamavano i Beatles. È difficile. Non ci sarà un altro Beatles, non ci saranno altri Beatles. Rimangono solo i Beatles e basta. Certo. E sempre si ascolteranno i Beatles, c'è poco da fare. Beh, da lì è partita la musica tra virgolette nuova. Sì, no? Sì, il mio lavoro l'hanno inventato loro, cioè, i tour mondiali li hanno inventati loro, sì. Il modo di fare concerto, di approssimarsi al pubblico, l'hanno inventato loro. Certo. Hanno inventato tante cose. Avevano 20 anni all'epoca. Sì, 22. E qui in Italia hanno suonato con Minoritano. Sì, Minoritano di appertutto. È vero. Appertutto era Minoritano. Grande Minoritano. È vero, ma è così. Assolutamente così, ha suonato due date, ha fatto uno a Milano, uno, e ricordo che la Rai aveva cioè doveva fare il filmato, ma ha detto no, è un gruppo che sparirà, sì, subito. Certo. Difatti, è sparito subito. Grande direttore artistico dell'epoca ha visto lungo. Non serve fare il filmato sui Beatles. Vabbè, andiamo avanti. Prossimo disco dei The Cinematic Orchestra, si chiama Ma Fleur. Questo è un disco che sei molto legato, perché c'è una concezione, c'è una liaison fra te e questa band. È verissimo. In questo disco suona il piano e canta Patrick Watson, che è anche un solista, e fa delle cose molto belle, più difficili all'ascolto. Mi piace molto il fatto, per dire, io non sono uscito come Giacomo Manfredi, a parte che non è che tutta sta bellezza di internazionalità, però perché volevo che fosse più la musica a parlare, piuttosto anche in copertina io non ci sono, no. In un video che ho fatto io non compaio per nulla, ma è giusto così, secondo me non ho necessità di apparire per forza, preferisco che sia la musica a parlare. E è un disco bellissimo, è un po' down tempo, un po' jazz, molto pop anche, suonato benissimo. C'è questo brano, si chiama mi sta sfuggendo il titolo, è una canzone che ascolto tutti i giorni praticamente, To Build a Home, si chiama, che è stata usata anche per pubblicità, certo. Bellissima, forse il brano che arriva dopo sul disco riprende molto quella sonorità. Il tuo può essere un disco anche un discorso anche che bello. Sono tre accordi, ma ascoltiamo se volete, ascoltiamo. is a house built out of stone. Wooden floors, walls, and windowsills. Tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel. This is a place where I feel at home. Vedi un piano, un piano, una piano. Voce e non c'è nient'altro. Dopo entrano degli archi, mi ha indubbiamente influenzato molto. Anche i Coldplay, secondo me, o sono contemporanei. Cosa dici? Anche, assolutamente. Soprattutto all'inizio. Sì. All'inizio c'è una contemporaneità, il modo di cantare di questa band, il modo di cantare dell'idea dei Coldplay. Sì, sì, c'è sì, questo, sì. Questa vicinanza. Dopo io non voglio tirare fuori strali a nessuno, chiaramente. Però questo sentire molto vicino. Sì, sì, tu, sì. Tu sei stato catalizzato da questa band così scheletrica, praticamente. Esatto, esatto. A volte non c'è bisogno del rumore, no, per tirar fuori. Qua è veramente, sono veramente tre accordi, quattro accordi. La semplicità che ti entra dentro dopo. Poi ci sono un sacco di canzoni, abbiamo citato i Pink Floyd, sì, che canzoni molto elaborate con suoni meravigliosi, però anche la semplicità può, per dire The Dancer, il primo brano, sono tre accordi anche quello, però sono tre accordi che funzionano insieme e creano un'atmosfera, un mood, possiamo dire. Mood, questo mood di questo brano mi ci ritrovo molto. Certo, certo, molto. L'altro che hai scelto? L'altro lo cambio, però. Lo cambi. Per restare un da po' vivo, in tema. In diretta. Per restare un po' in tema, di Anthony and the Johnsons. Ah, ecco, un altro musicista che qui, non so, chiaramente è venuto dopo di questo. È venuto dopo, però, sì. Però la voce, ecco, tu parli della voce, la voce e la mente. Anche lui la voce e la mente. La bellezza sua, che lo vedi, è vero. Nel momento in cui canta, per un cantante la testa va sempre in giro, piuttosto che a volte sull'esprimersi sul cosa devi fare, c'è quella nota non semplice, c'è quel passaggio, devo stare attento al tempo. Col tempo si migliorano poi questi aspetti, l'espressività c'è in primis, non cantare con quello che sai fare, non cantare su quello che sai fare. Ecco, hai detto una cosa giusta. Ripeti il concetto, che è molto interessante. Questo lo dico spesso ai miei allievi, ma me lo dico anch'io. Cantare con quelle che sono le mie risorse, non sulle mie risorse. Ecco, vedi, con quelle che sono le tue risorse. Esatto, senza voler far di più e senza cercare di non far di meno. Come dicevamo prima, non possiamo piacere a tutti. No. Però possiamo piacere se in primis forse ci piacciamo noi, a qualcun altro arriverà. Anthony canta con le sue risorse. Ricordiamo che è stato scoperto da Laurie Anderson, che era la compagna di Lou Reed, in un negozietto di New York. Non lo sapevo questa cosa. Stava girando, stava guardando dei dischi e gli ha spulciato, gli ha buttato questo suo primo disco che ha fatto. E Laurie Anderson è una grande cultrice della voce. Anche a Sanremo è stato quest'anno. Lui sì. Il lui. Livello era, incredibile. Cioè, è arrivato lui e mamma mia. Cioè, questo è veramente... la voce che conta, cioè al di là sì. della strumentazione della band, certo, che però può anche avere. Qua questo è Hope sì. There's Someone, esatto, c'è solo un pianoforte anche qua all'inizio, dopo entrano gli archi. Sì, dopo entrano gli archi, però anche qua ho scoperto che ha fatto anche una cover di Bob Dylan, No Knock on Heaven's Door. Sì, ha fatto anche quello. Sì, sì, sì, è da sentire. È una grande voce, è una grandissima voce, c'è dentro tutto, c'è dentro il maschile, il femminile, la paura, la sofferenza, la forza, c'è veramente di tutto. E personalmente, sentendo una voce del genere, come si può rimanere insensibili? No, qualcosa ti smuove. Se non ti smuove, vuol dire che forse devi lavorare un po' su te stesso per arrivare a percepire certe cose. L'hai visto dal vivo qualche volta? No, purtroppo no. Ma avrai tempo. Avrò tempo. Certamente. Sì. Poi l'altro scelta. No, anche il sesto? Sì, facciamo anche il sesto. Adesso. Allora, avevo segnato prima, l'ho tolto perché non è molto conosciuto. Loro si chiamano Dredge, sono anche loro californiani. Il disco si chiama Catch Without Arms ed è bellissimo. Genere? Genere è sempre un po' post-rock, però molto, molto fruibile. Perché io, quando ho sentito la traccia 2 di questo disco, che si chiama Bug Eyes, sono rimasto fortemente emozionato e ho detto: io nella vita voglio fare questo. Ah, ho capito. Quindi per me ha un significato molto forte. Fondamentale. Sì, fondamentale. Adesso sono le 23:20, Agostino. Facciamo fare a Giacomo un discorso di pubblicità. Ok. Cioè, voglio sapere il sito dove si può acquistare il disco. Oh, benissimo. Fai un po' di pubblicità, ti autoreferenzi. Allora, anzitutto ringrazio Antonella Lavini, che è... E la salutiamo. La salutiamo. È il nostro gancio. È il nostro gancio, mi cura l'ufficio stampa Black Pua Promotion, del quale sono molto contento. Allora, il sito è www.leavesandstone.com, come foglie e pietra. Foglie e pietra. L'ho fatto da poco, ci sono delle foto molto belle, le ha fatte una fotografa verbana, Noemi Mazzucchelli, bravissima, veramente bravissima, merita solo per vedere le foto che ha scattato lei. C'è Facebook Leaves and Stone, oppure ci sono io, Giacomo Manfredi, potete aggiungermi, chiedermi qualsiasi cosa. Il disco lo potete comprare direttamente dal sito. C'è anche Twitter, c'è anche Tumblr, c'è su YouTube è molto importante. Ci sono i video di The Dancer, di That Word, che è la traccia che chiude il disco. E ci tengo molto ai video perché sono l'effettiva rappresentazione di quel sentimento che avevo io quando ho scritto i brani, ed è questo è molto importante, nel senso che è stato bello unire alla musica la danza. Tra l'altro The Dancer è stata coreografata molte volte, anche Ian Burning ha vinto un concorso nazionale con i ballerini di Mirko Boemi di Roma, che saluto, per il quale sto scrivendo il disco anche, che poi ci terremo in contatto per questa cosa. Anna Rita Larghi, che è una delle più grandi coreografe italiane ed è una mia cara amica, si è prestata nel curare le coreografie, nel farsi un mazzo incredibile, perché il video, vedrete, ci sono pochissimi tagli, è tutto in presa diretta, possiamo dire. C'è stato un grandissimo lavoro dietro e il risultato è molto bello, secondo me. Quello di That Word, un'attrice, Isabella Tabarini, anche lei del Piemonte, perché io insegno lì, ha fatto un lavoro meraviglioso, 3 minuti e mezzo di canzone in quadratura fissa, e ha espresso con la sua arte quello che intendevo io. Video di Mirko Zullo, scrittore, produttore radiofonico, uno che ne fa di ogni anche lui. Quindi sono i video su YouTube, Leaves and Stone, c'è The Dancer e That Word, secondo me meritano di essere visti. Beh, adesso però facciamo sentire qualcosa di suo. Certo, ok, sì. Prossimo, diciamo dopo. No, se vuoi puoi dirlo. Ok, vuoi fare una premessa. C'è un titolo. Vai, vai. Il prossimo brano si chiama Untitled. Mm. No, senza titolo. Perché non sapevo effettivamente che titolo dargli. Ne vado molto fiero perché il pianoforte lo suono io. Ah, bene. E quindi l'ascoltiamo ancora di più con attenzione. Ok. Bene, poi ne parliamo. Sì. Your eyes on the way. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. 23 e quasi 30 minuti di questo mercoledì fortunatissimo 17 aprile 2013. Lo segnano. Abbiamo Giacomo Manfredi qui a Blu Radio Veneto che ci presenta il suo disco dal titolo The Dancer. Veramente lui è il 50%, no, il 30% di una band. 33,3 periodico. Livers e Stone qui a Blu Radio Veneto. Purtroppo, appunto, per motivi come dire, infortuni. Mezza band non c'è, quindi c'è solo lui, ma si sta facendo una compagnia splendida. Vi ricordo, Blu Radio Veneto sui 88 700 e 94 600 MHz in modulazione di frequenza. Il nostro numero telefonico con in studio è lo 049 875 6423 e gli sms invece, se ci volete mandare qualche saluto, perché no, qualche domanda da fare a Giacomo, vi ricordo il 346 23 20 033. È mercoledì, non ci credete, ma è la voce di Agostino Spolore, ma è sempre comunque assieme al suo fedele compagno, cioè Maurizio Calzavara, per questa puntata di Rock Wave classica del mercoledì dalle 22 circa alle 24 circa. Allora, caro Leaves and Stone, questo è il pezzo più minimale, più complesso, più difficile del disco. Non per altro si chiama senza titolo. Sì. Complesso perché ha tante colorazioni, molto non complicate nel senso, complicate perché si accostano determinati tuoi amori musicali, le voci femminili, quella alta e quella bassa, ed è un indice di difficoltà, di sperimentazione, possiamo dire questo? Possiamo dirlo. Le due cantanti sono Elena Bonanate e Deborah De Pasquale, mie care amiche e colleghe. Ha curato molto la programmazione musicale qua il fonico Daniele Valentini, che tra l'altro hanno appena aperto lo studio nuovo, si chiama Treehouse Lab a Lodi, e lavorano molto bene, devo dire, e lavoreremo anche in futuro per il prossimo disco con loro. Sì, è il pezzo, quando lo facciamo live io dico sempre chiudete gli occhi e lasciatevi trasportare, poi se vi porta in un posto che non vi piace potete anche dirmelo, però secondo me il senso del brano è un po' questo, è una storia non storia, sono frasi che evocano un qualcosa, e a me hanno evocato qualcosa, ma a qualcun altro può uscire qualcos'altro, non c'è una chiara guida in questo brano. Volutamente non c'è. Volutamente, volutamente. Sì. E non è un non esporsi, semplicemente è come un quadro di Dalì. Sì, non lo so. Da l'interpretazione, cioè la gente deve interpretarlo. Certo. Deve essere. Poi ci sono i critici che probabilmente sanno cosa dire, ma i critici sono critici. Poi io posso avere un'altra idea. Dimmi. No, stavo dicendo che insomma, nel senso che i critici ti danno una critica ed è giusto che sia anche negativa o positiva, certo. Comunque ti aiuta a crescere. Assolutamente, su questo non ci piove. A me interessa sapere perché questa coesione di tanti colori, dove l'idea di questi tanti colori, schermato, cioè proprio a zero, com'era il pezzo iniziale? Era pianoforte e voce mia. Un piano inquietante, secondo me. Sì, molto inquietante. Sì, con delle note. Infatti, poi quando l'ho dovuto spiegare a chi per suonarlo live, mi prendeva in giro, ma che note sono? Non lo so, sono quelle. Sì, era proprio asciutto. Anche questo, appena l'ho. L'ho messo giù sul pianoforte, ho detto questo lo registro perché mi ricorda molto delle sonorità che mi piacciono. Io ho parlato con Giacomo a microfono spento, parlavo di new wave, c'è un po' di new wave in questo pezzo, secondo me. C'è. Negli altri no, ma in questo sì, particolarmente. Sì, si stacca molto. Si stacca volutamente, sembra un pezzo, proprio un'altra cosa, sempre fa parte del progetto, ma è bello che sia un'altra cosa, perché deve essere un progetto tante diverse facce, tante diverse. Tu hai parlato di Dalì, era un pittore straordinario che creava determinate colorazioni, anche ti dava un pugno sullo stomaco spesso e volentieri. Certo. Sì. Sono appena stato a Berlino a una mostra di Dalì e ti ti smuove perché all'inizio non capisci, non capisco questa cosa. Cos'è? Allora ti elabori qualcosa di tuo, effettivamente, che è forte. Non ti ha detto lui cosa, ma sei te che elabori qualcosa di tuo. Detto, allora cioè, pensi. Non arriviamo che il tuo non titolo possa dare un pugno nello stomaco agli ascoltatori, però ti fa pensare, quello sì, musicalmente. Spero di sì. Penso che sia quello che tu vuoi arrivare, fare pensare la gente. Sì. Ascoltare. Certo. Ascoltare, certo. Questo è fondamentale, positivo. Certo, quello che dicevo prima, bisogna avere voglia di ascoltare. Non è un brano semplice, no, però assolutamente. Ne sono soddisfatto anche rispetto live, ha una forza, ha una grande forza. Live, come lo fai? Come lo esegui live? Live siamo in tre, siamo al piano, c'è cioè Ruggero Frasson, e al violoncello Emanuele Fiammetti. Con il dito a posto. E io loro li ho trovati successivamente, perché infatti live sono cominciati più o meno 5-6 mesi dopo l'uscita del disco. È stata un'uscita un po' incosciente forse, ma avevo questa esigenza di far uscire, avevo già in mente cosa volevo fare, dove volevo arrivare, però effettivamente non avevo i musicisti. Allora prima ho provato con una band più estesa, eravamo in 6, però effettivamente non funzionava. Allora siamo asciugati, siamo rimasti in 3, abbiamo iniziato a capirci, a trovarci, a vedere se le cose funzionavano. Effettivamente funzionano, il live è buono, ha un bel impatto, quindi siamo in 3. Il piano nel mio progetto ha una importanza molto forte, anche in futuro ce l'avrà. Insomma, è proprio uno strumento che piace molto, mi apre molti mondi, ecco, diciamo così. Bene. Il seguito di questo disco, chiamiamolo così, sarà più o meno uguale come impostazione o cambi completamente sound? È una cosa su cui sto ragionando in questi giorni, devo essere sincero. Questa sì. È la tua immagine, la cambi? È un rischio, vero? Però è anche giusto sperimentare. È anche giusto sperimentare, forse è giunto il momento di mettere anche una sezione ritmica. Che dia qualcosa in più, quel colore in più, che dia anche più possibilità forse live, che io sto sperimentando anche con degli aggeggi elettronici per mettere live magari qualcosa anche un po' di drum machine piuttosto che di suoni che comunque a me piacciono in primis e poi ti fanno fare un passo avanti. Forse sarà ancora così, non lo so. Allora, il piano in questo disco ha anche una sezione ritmica, cioè hai sostituito la sezione ritmica con il piano in alcuni momenti. Esatto, e live non è per nulla non semplice. È proprio, è difficile. Per fare l'unplugged deve avere un po' il pelo effettivamente sullo stomaco. E trovarsi, in primis c'è un'ottima armonia a livello umano tra di noi, siamo amici in primis, però bisogna anche capirsi a livello musicale. Le prime volte non è semplice, assolutamente, non è semplice tuttora, bisogna continuare a provare, continuare a migliorare, in prospettiva di avere quel concerto. Mm-hmm. Tu dicevi prima, cioè prima che partisse il programma, che domenica è un concerto. Sì, domenica è un concerto a cui tengo molto. Suoneremo in una delle scuole dove insegno, l'Accademia di Omegna, alla quale sono molto legato. Una scuola di musical, quindi c'è lezione di canto, c'è lezione di strumento, c'è lezione di recitazione e lezione di danza. Noi il concerto è su invito, diciamo, lo faremo in un'aula di ballo classico. A me piace molto unire un po' le arti, anche perché poi appunto diciamo che i ballerini mi hanno dato molta soddisfazione dopo sentendo il brano e dicendo è molto musicale, voglio farci qualcosa di mio sopra, per me è stato un regalo bellissimo. E sarà particolare perché ci sarà la fotografa Noemi che espone le sue opere, quindi immaginate quest'aula di danza tutta in legno con gli specchi dove sono appese queste fotografie meravigliose, e in più ci sarà lo scrittore Mirko Zullo, che è stato un ragazzo che ha girato il video di That World, è uscito il suo libro, e uniremo i miei brani a degli estratti del suo libro. Quindi è un'unione. Anche un reading, praticamente. È un reading, sì. Non è proprio un concerto, uno spettacolo. Uno spettacolo. Poi, conoscendoci, finirà sul ridere, sicuramente. Però sarà un bello. Un po' ridere, un po' riflettere. Certo. That World, sì. La canzone che chiude il disco. Sì. That Word è il secondo brano che ho scritto per questo disco. Abbiamo tratto un video e la amo molto. È quella che si è legato particolarmente. Pensavo di no, ma quando la fai live, quando la facciamo live, è quella che mi smuove di più. Forse è quella con la quale riesco a comunicare maggiormente col pubblico, è che arriva di più live. Beh, ha una forza maggiore live, forse, piuttosto che su disco. Vediamo se arriva adesso al pubblico. Speriamo. Everything this time doesn't matter if I'm lost, this loneliness is bleeding. Connection to myself, why every time I love, I still run away. And even in your eyes, and the swan be gone as long as I'm there. You let the fear don't win, but time will clear your mind. This life deserves to be lived. Raise your eyes. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Degna chiusura, insomma, di questo The Dance. Sì, direi di sì. Tu le vivi proprio, ci entri, le soffri quasi le canzoni cantandole, vero? Le senti proprio dentro di te, cerchi di metterci tutta la tua passione. Se arriva questa cosa, io ritengo di aver fatto il mio lavoro. A me fa questo, quando ti sento cantare così, sembra proprio che veramente tu sei dentro la canzone. Sì, credo sia così. Non è semplice forse farlo arrivare. Se arriva vuol dire che allora ok, io come cantautore, come cantante, come autore ho raggiunto il mio obiettivo. Si sente che è una canzone tua, quantomeno, insomma, che non è una canzone di Agi che tu canti. Bene, che mi fa piacere. C'è una cosa un po' diversa, certo. Insomma. mi fa piacere. Agostino, parlavamo con Giacomo mentre il pezzo andava di una cosa interessante, secondo me questo potrebbe essere benissimo, faceva parte di, poteva far parte di un'opera rock, di un musical abbastanza accentuato musicalmente. Tu dicevi una bella chitarra elettrica, un bella schitarrata, una bella chitarra lisergica, ci stava. Sì, sì, sì, e può darsi nel tuo proseguo che, perché no, che arrivi una chitarra elettrica. Non metto limiti alla provvidenza. Appunto, musicale non si mette mai limite alla provvidenza musicale. E non soltanto quella musicale. No, assolutamente. Allora, le canzoni del disco sarebbero finite, cioè nel senso che questo EP contiene 6 canzoni, le abbiamo proposte tutte. Sì. Però Giacomo ci regala qualcosa. Allora, questa è una super anteprima, e voi direte, ah, noi che ce frega, però è così. Perché no? In realtà è una preproduzione questa. Sempre nella scuola di Armenia dove insegno, il coreografo si chiama Maurizio Frisone, con altri ballerini e attori hanno lavorato a una rappresentazione della Divina Commedia in un posto molto particolare dove avremo la fortuna di suonare. È una cava di marmo rosa sottoterra a Ornavasso, wow, nel Verbano, è del marmo che è stato usato per il Duomo di Milano. C'è sempre il rumore dell'acqua, è umido, fa un freddo terrificante. Però è un posto veramente magico, sei dentro la terra e senti proprio la forza che c'è in quel luogo. Ma lì cosa avete suonato? Per questo, solo questo pezzo? Esatto, io ho curato insieme a Maurizio la direzione musicale, diciamo, quindi brani molto evocativi, e mi stavo facendo un grande ascolto di questo genere, finché ho detto, ma perché non scrivo io un pezzo? Allora, nella mia aula ho un pianoforte a coda bellissimo, mi sono messo, è venuto fuori dal nulla, e per la complessità anch'io me ne sono stupito, per lo sviluppo più che altro che al brano. Ho registrato col telefono, Maurizio vieni a sentire, fa, che bello, già ci vedo qualcosa. Ed è la fine del purgatorio e l'inizio del paradiso. Fine del purgatorio, volutamente la prima parte è molto pesante, c'è una ripetizione molto forte del pianoforte. Dopo si va nel paradiso ed è molto più allegro, subentrano delle voci, ho cantato io, hanno cantato Maria Rita Briganti e Simona Iaccarino, una sorta di circle song si chiamano, sono delle parti sempre ripetute che formano un'armonia tra di loro, volutamente dissonanti, per dire sei nel paradiso ma c'è comunque qualcosa, cioè il peccato è sempre dietro l'angolo, quindi non c'è comunque non ti adagiare troppo sulla gioia, ma c'è sempre qualcosa sulla quale lavorare. E il pianoforte l'ho suonato io, quindi per questo che è una preproduzione, sarà io credo proprio sul prossimo disco, sempre per continuare col discorso di varietà di generi. Non so neanche che genere, questa è proprio una colonna sonora, potrebbe essere benissimo, però sarà all'interno di un disco pop. Potrebbe essere anche un pezzo di una colonna sonora, perché no? Perché magari no? Se qualcuno te lo chiede. Certo, mi piacerebbe molto scrivere la colonna sonora di un film. Magari questa è una, poi magari ce ne puoi aggiungere delle altre sempre nelle stesse condizioni. Certo, certo. Perché chissà, no? Chissà. Mai dire mai. Comunque per chi è improbabile, ascolti qui, che capita nel Verbano il 1° maggio, fanno 3 spettacoli di questa Divina Commedia in cui c'è recitazione, c'è danza, c'è musica, molto molto bella, molto bella. Le cave di Ornavasso, andate a vedere su internet, un luogo magico. Beh, con lo streaming arriviamo dappertutto, magari qualche ascoltatore. È vero, vedere. Perché no? Perché no? A parte che spero mi stiano ascoltando anche i miei allievi, sennò domani. Gli hai detto tutto? Faccio l'interrogazione. Gli hai detto tutto? Sì, sì. Va bene, ci ascoltiamo questo pezzo allora, cosa dici? Sì, si chiama The Rage and the Glory. Ok. Rock Wave. Rock Wave Live. In tuo onore, va bene? L'abbiamo rimessa. Quella che dà il titolo, la tracklist. Quella che dà il titolo al disco, scusate. La... The Dancer. La lasciamo in sottofondo. No, la lasciamo in sottofondo finché ci salutiamo per questa sera, insomma. No, volentieri, io voglio ritornare. Ah, ecco. Ve lo impongo. No, scherzo. No, però è un piacere. Insomma, se hai il piacere, appunto, come dicevi tu, di venire a presentarci il nuovo disco, assolutamente sarà, sì. Assolutamente, le porte, sì. Vedi, sono aperte. Benissimo. Vediamo di accendere magari qualche candelina. Sì, sì, no, prima. Siamo attenti. E possibilmente non il 17, va bene? Non il 17. Salutiamo Emanuele, comunque, simpaticamente. Ci dispiace ovviamente che non sei qui, e sarebbe stato bello averti, ma comunque siamo in bocca al lupo e soprattutto tanti auguri per il tuo dito. Insomma. Esatto. Quindi questo ultimo pezzo che abbiamo ascoltato aveva tante colorazioni, con Giacomo parlavamo anche della world music, chiaramente... E l'origine c'è, Bob McFerrin, sì, parte da quello. E il mio maestro di canto è un... Ferriano, tutto convinto. Sì, sì, ha cantato anche con Bob McFerrin, sì. Quindi... È un grande. E lui fa questi seminari di Circle Song dove ci sono questi loop di voce che sono incredibilmente coinvolgenti e ti tira fuori veramente un'energia pazzesca, è bellissimo. Ricordiamo un'ultima cosa, vero Agostino? Se uno vuole fisicamente il tuo disco, come deve fare? Allora, ma può scrivere a me in privato, Giacomo Manfredi, glielo invio volentieri, oppure sul sito ci sono tutti gli estremi, c'è proprio la sezione shop, o anche su iTunes, è vero, mi dimenticavo, il disco è anche scaricabile da iTunes, quindi Leaves and Stone, The Dancer. Bene, adesso, caro Agostino e cari nostri ascoltatori, Giacomo, un'altra chicca. Sì, un'altra chicca, una new entry in ogni caso, perché il testo, mi diceva, l'ha scritto qualche ora fa. Sì, addirittura. Sì, esatto, live, sì. Proprio qua, ha scritto il foglietto e è comparso da qualche minuto. In colonna magari a Sirmione, che ne so, no? A Sirmione, sì. No, lì non mi sarebbe uscito un bel testo. No. Testo improponibile. Sì, allora, diciamo che è una cosa fortemente improvvisata. Molto improvvisata, ma belle cose, ma improvvisate sono sempre belle, allora, cose. Allora, in primis perché non avrei dovuto suonare nulla questa sera, in secondo luogo perché l'ukulele ce l'ho tipo da Natale, quindi non lo so suonare, però... È uno strumento sacro per gli hawaiani, ha una forza, nonostante lo vedi e dici ah che carino la chitarra piccolina, non è una chitarra piccolina, ha una grande forza l'ukulele, e ispirato da Eddie Vedder, esatto, il progetto, che l'ha lanciato in scala mondiale, sì, beh, un album bellissimo, Ukulele Songs, e ho chiesto alla mia ragazza, senti, voglio l'ukulele a Natale, no, non te lo regalo, alla fine mi prendeva in giro perché me l'ha regalato, e appena l'ho preso in mano mi è uscita questa melodia su queste corde e ho detto vabbè, ma allora mi sa che questa qua diventerà una canzone. Non assicuro niente, non sono un legno a suonare, vi avviso. Potrei sbagliare. No, però potrebbe essere un inizio per una futura carriera anche di musicista. Ne dubito fortemente. No, chi lo sa, chi lo sa. Come si chiama il pezzo? Si chiama The Story of Sand. The Story of Sand. Allora Maurizio, sì, caro ci vediamo fra 24 ore, sì, domani giovedì 21 ore, sì, domani giovedì con una pianista canadese che abita a Vicenza, lei di Montreal, però Montreal, sì, è una ragazza molto brava, molto brava, molto Tori Amos, e non soltanto Tori Amos. Si chiama? Michelle Raffaele. Bene, domani te la segni, ci ascolti? Certo. Ecco, così così ci saluti. No, anche. Sai che domani a quest'ora ho lezione di rock a scuola. No, finito. Alle 10 e mezzanotte, ho finito, è vero. No, è dalle 21 alle 22. No, allora è la lezione di rock. No, è lezione di rock. Beh, c'è podcast, fra qualche c'è giorno. Podcast. Fra qualche giorno potrei riascoltare. Bene, a parte gli scherzi, sì, d'accordo. Vi diamo l'appuntamento quindi alle 21 di domani sera, sempre qui a Blu Radio Veneto, sempre con Agostino Spolaore, sempre con Maurizio Calzavalli, con appunto Michelle Raffaele che ci viene a presentare il suo disco, anche per lei un EP, quindi anche bene. Per lei 5 canzoni, quindi vedi. Sarà un piacere ascoltarla e magari anche entrare in contatto, perché no? Perché no? Potrebbe essere un'idea. L'altra, tra l'altro, ha una bellissima voce anche. Bene, Bene, i programmi di Blu Radio Veneto continuano ovviamente sempre qui, sempre in diretta, e ovviamente la notte, insomma, siamo un po' in registrato, cioè non solo acustico di Monza. Sì, prima si parla di Simone, beh, prima effetto notte. Di Simone con effetto notte. Io vi ringrazio. Grazie, è stato a te, un piacere. Giacomo. Grazie Giacomo, di cuore. Alla prossima. Di essere venuto qui questa sera, e ti aspettiamo appunto con certo il prossimo disco nuovo. Ciao a tutti. Ciao, grazie, buonanotte. Ciao. Buonanotte. Prego. You don't know where to hide. All those shivers are rhymes, and my eyes feeling blue, 'cause they're not watching you. Trust my heart, it is kind, like a nice sungrass smile, and my eyes feeling sad, 'cause they're watching the end. Because you, my friend, you know where to shine, a land of feathers and flowers in bloom, a mirage of sand. Read my eyes, there's a sign, all these shivers are mine, and this sadness has gone. Keep on saying carry on, trust in hopes and in time, all your scars will redeem. Raise your head and your feet, set your mind always free. Because you, my friend, you know where to shine, a land of feathers and flowers in bloom, a mirage of sand. Because you, my friend, you know where to shine, a land of feathers and flowers in bloom, a mirage of sand. Grazie.